sapore. E queste le prime parole che dico in italiano. Baciami, stringimi, voglio restare con te. Bocca mia, bocca tua, mezzaluna sul mare. Oh pizza pie, oh pizza pie, oh pizza mare. Amore, ti mangerei a suon di baci e mandolini. Ah, ah, ah, pizza pie, pizza pie, pizza pie, pizza amore. I baci tuoi di pizza pie hanno il sapore. E queste le prime parole che dico in italiano. Baciami, stringimi, voglio restare con te. Pizza pie hanno il sapore. E queste le prime parole che dico in italiano. Baciami, stringimi, voglio restare con te.